La mamma. Sì, le cince vogliono mantenere il cielo perché quelle loro ali sfruttano i pensieri. E io invece devo stare a letto. E tu, stai fermo. Ciccione. La mamma. Mamma, questa è per Anna, è per Maximilian, è per papà, è per Josef. La mamma. Le cince volano nel cielo. La mamma. Questa è per te. Cince volano. Le cince hanno ali grandi. E la mamma. Se io per stare a letto non è opportuno. Ciccione. È il mio racconto. Mi hanno pubblicato un racconto. Guardate. Mi hanno pubblicato un racconto. Mamma. È il mio racconto. Чевчена вешваєдена, як кружовек фія, очка заплакала, рончка заламала, страчу їй ще шпя. Чому ж ти плачеш, чого ж нарджека? Дівчино моя, якщо не мам плакати, не мам наржекати, не бенде твоя. Ти пійдеш гуро, а я доліно. Ти замфіктнеш ружо, а я калино. Я бенде панно, на великим Боже. А ти б'єнджеш к'єндзем, великим класоже. А де понжеме, кажеме собє. Суоте літере, вереч на гробє. А хто там пшейже, альбо пшейже, спєче та собє. Słończona para leży w ten grobie. Weszła jedyna, jak różowe kwiat. oczka zapłakała, rączka załamała, stracił jej się świat. Non mi chiameranno. La mia pagella era la migliore di tutte, ma non mi premieranno. Mi dispiace di averti delusa. Sai che frequento il proletariat. Ieri sono stata fermata dalla polizia durante una manifestazione contro il regime per un controllo dei documenti e sembra che sia imminente il mio arresto. Devo andarmene. Mamma, papà, sono arrivata a Zurigo. È una città bellissima, calda. Abito da Lübeck. Aiuto il marito a scrivere degli articoli per un giornale. Mi sono iscritta all'università e mi sento a casa, mi sento cittadina del mondo. Sto frequentando i socialisti polacchi ed il gruppo russo. Ho conosciuto un lituano ad una riunione. Si chiama Leo. Leo Jogikis. Ecco le mie sorelline. Per come camminano o per come starnazzano? In questo caso assomigliano più ad una riunione di socialisti polacchi. E pensa che io, per venire qui a starnazzare con loro, ho attraversato il confine nascosta dentro un vagone, dopo aver convinto un prete che scappavo all'estero per sposare un cattolico. Ma in questo caso ti batto. Io sono stato nascosto sotto l'argilla. Non è vero. Mi stai prendendo in giro. Ma è vero, e come? Ho rischiato di essere trasformato in un monumento prima di diventare celebre. Ma tu sei già celebre. Cosa ne dici del duello con Plekhanov? Ha rifiutato il tuo aiuto economico alla sua rivista pur di non condividere con te la direzione. Non come sono chiacchieroni i socialisti di Zurigo. Ti dirò che a me non importa nulla della sua scomunica. Mi basta solo poter mandare i libri, anche quelli che ha scritto lui, in Russia. Senza una cultura rivoluzionaria non si fa la rivoluzione. Hai freddo? È tardi. Ci vedremo domani. Sì. Ti sembrerà strano che ti scriva. Quando abitiamo a 10 passi di distanza, ci vediamo 3 volte al giorno e del resto sono tua moglie. E perché tutto questo romanticismo? Queste lettere scritte di notte al proprio marito. Amore mio, che il mondo intero rida pure di me, ma tu no, tu ti prego, leggile con attenzione e con amore. I miei successi in pubblico, la mia attività politica, possono avvelenare i nostri rapporti a causa del tuo orgoglio e della tua diffidenza. Ma se dovessi scegliere se ritirarmi oppure continuare con la politica e rompere con te, sceglierei la prima soluzione. Qui stiamo proprio andando di male in peggio. Nel partito sta prevalendo l'idea che prima bisogna combattere per l'indipendenza della Polonia e dopo per le rivendicazioni degli operai. Nella situazione attuale, poi, non è che conquistando l'indipendenza gli operai starebbero meglio. Cambierebbero semplicemente padrone, da un capitalista russo ad uno polacco. Ma vuoi mettere a essere sfruttati da un compatriota? Ma io ti strozzo! È inutile che te gabbi con noi, Rosa. Tu ti vanti sempre di essere democratica. Prepara una bella mozione contro il nazionalismo, presentala al congresso dell'Internazionale e fai in modo che sia approvata. Mancano pochi mesi. Ecco come sei. Fai sempre lo spiritoso a sproposito. Chi vuoi che voti la nostra mozione se siamo quattro gatti a pensarla così? Facciamo aumentare il numero dei gatti. Dobbiamo fondare un giornale e scrivere lì le nostre opinioni. È l'unico modo per farle conoscere e diffonderle. Certo, è una cosa semplicissima. Basta avere dei soldi, una tipografia, chi lo scrive, chi lo distribuisce. I soldi ci sono, e la tipografia pure. Per scriverlo abbiamo Rosa. A distribuirlo ci penserà il duo Karski-Varski. Hai proprio pensato a tutto, eh? No, non sto mica sempre a lamentarmi del destino avverso come voi polacchi. Ma ora smettiamo di perdere tempo e veniamo alle cose pratiche. C'è un solo problema, Rosa. Il giornale deve uscire a Parigi, quindi dovrai partire al più presto per la Francia. Ti accompagnerà Varski. Sono già d'accordo con il tipografo e con alcuni compagni francesi. Ma perché a Parigi? Vuoi liberarti di me? Confessalo! Su, Rosa, non hai più tempo di scherzare. Occorre un terreno neutrale. Comincia piuttosto a pensare ad una scaletta con le cose da scrivere nel giornale. Devo uscire al massimo in luglio perché il messaggio si è digerito in tempo per il congresso. Hai proprio pensato a tutto, ma non al nome del giornale. Lo chiameremo Causa Operaia. Leo Caro, come avrai saputo, al congresso dell'Internazionale di Zurigo non è stata accettata la delegazione di Causa Operaia. Ero elegantissima, con quell'abito chiaro che a te piace tanto e un fiore all'occhiello. Il giornale esprime le posizioni del proletariato socialista polacco e ha diritto di essere ammesso a far sentire la sua opinione. L'ordinamento socialista è attuabile solo internazionalmente. Sotto l'attuale dominio del capitalismo non c'è posto per alcuna autodeterminazione nazionale, perché in una società fatta di classi ognuna punta al predominio sulle altre e non alla libertà nazionale. Il separatismo nazionalista è il cavallo di Troia della borghesia e il compito non deve essere quello di strappare la Polonia alla Russia, ma quello di abbattere lo stesso assolutismo. La rivoluzione porterà l'autonomia culturale a tutti i popoli finora oppressi. È tra i principi della politica socialista combattere ogni specie di oppressione e conseguentemente anche quello di una nazionalità da parte di un'altra. Il compagno Plekhanov. Non posso identificarmi con la ragazzina che tempo fa mi sentivo con te e quale sembra che tu mi veda ancora oggi. Tutto dentro di me è così calmo, freddo, che ti pensi sempre è più che scontato. Strano, non ero mai stata tanto sola, spaesata in una grande città, con compiti importanti e forze insufficienti per eseguirli. Eppure mi sento del tutto indifferente e tranquilla. Ho riflettuto sui nostri rapporti e dopo il mio ritorno dal congresso dell'Internazionale ti prenderò in pugno tanto da farti strillare. Vedrai. Ti terrorizzerò. Tu dovrai umiliarti, arrenderti e sottometterti. Dovrò spezzarti le corna. Se no, non ce la farò. Ho saputo che stai diventando famosa con i tuoi scritti e non ne dubitavo. Conservo sempre i giornalini con i tuoi racconti. Rosetta, ho avuto dei problemi di salute, ma spero di poter venire a Zurigo il giorno della tua laurea. Tu intanto cerca di non metterti in pericolo. Mamma. Hai ragione. Mi ero scordata di te. La mamma era convinta che il re Salomone capisse il loro linguaggio Ed aveva ragione. Io capisco benissimo quello che dice la Cincia. Dove sei stata finora? Leo, sei tu. Ma che cosa fai al buio? Ero al giornale, ricordi che te l'avevo detto, dovevo correggere l'articolo che esce domani sul Neue Zeit. Senti, smetti di tenermi il muso e andiamo a fare una passeggiata al lago, ti va? È così bello essere di nuovo a Zurigo. E io volevo parlarti di una cosa. Non è proprio la serata adatta, eh? Vabbè. Cosa mi volevi dire? Niente. Niente, Leo. Te ne parlerò un'altra volta. No. Voglio saperlo adesso. Al giornale pensano che sarebbe molto meglio se mi trasferissi a Berlino. Specialmente dopo l'abrogazione delle leggi antisocialiste. Lì si può lavorare fuori dalla clandestinità. E perché non ci vanno loro? Ma cosa c'entrano loro? Hanno soltanto espresso un parere. Specialmente nella Slesia. La maggior parte degli operai è polacca ed è completamente abbandonata dagli attivisti tedeschi anche per problemi di lingua. E siccome fra poco in Prussia ci saranno le elezioni. Parto per la Slesia. Il viaggio fino a Krolleschahuta dura 12 ore e costa 23 marche in terza classe e 33 in seconda. Io ho intenzione di prendere la seconda, ma presentare il conto al partito per la terza. Il partito. Ogni contatto più da vicino mi disgusta. Ogni volta che mi imbatto in loro io sento una tale puzza di sporcizia, vedo tante debolezze di carattere, tanta mediocrità. Io non ho paura delle difficoltà, ma temo di sguazzare nella merda. Ho lo spirito ammaccato. La rivoluzione non sarà rimandata a lungo. I nostri operai sono stanchi di spezzarsi la schiena per un pezzo di pane troppo piccolo per sfamare tutta la famiglia. E sono stanchi di veder morire i loro figli fra i macchinari delle fabbriche. Ho letto nei loro occhi la forza e il coraggio per capovolgere questa situazione. La rivoluzione è vicina. Le situazioni rivoluzionarie finora esistite hanno dimostrato che non bisogna tenere imbrigliate le masse, ma i deputati parlamentari, affinché non tradiscano il popolo e la rivoluzione. Gli operai non hanno nulla da perdere fuorché le loro catene. Hanno un mondo intero da conquistare. Signora, non dovremmo chiedere l'abolizione del lavoro femminile nelle fabbriche? È uno scandalo che una donna incinta debba girare in fabbrica. Questa è una falsa morale. Se la nostra Luxemburg oggi, tenendo la relazione, fosse stata incinta, mi sarebbe piaciuta ancora di più. Donne e uomini hanno stessi diritti e stessi doveri. Sareste stupiti nel vedere in quante occasioni una donna può dimostrare una forza superiore ad un uomo. Signora, la mia compagna aspetta un bambino. La devo sposare o il matrimonio è una deviazione borghese? Sposati e sii felice con la tua donna e il tuo bambino. Leo, perché non possiamo avere anche noi una vita come tutti gli altri? Perché non possiamo avere anche noi un bambino? Sono l'unico candidato rivoluzionario alla direzione del giornale di Dresda. Ho deciso di accettare. Il posto da Kausky invece consiste nel condividere con lui la redazione alla Neue Zeit. Non preoccuparti, non trascurerò la politica e gli studi. Chi scrive gli articoli all'interno del partito si dimentica di scavare più a fondo dentro di sé e di sentire tutta l'importanza e la verità di ciò che dice. Ci si abitua talmente tanto a dire certe cose che e si borbotta come il Padre Nostro. Avevi ragione, avrei dovuto rifiutare. Mi hanno impedito di difendermi dagli attacchi quotidiani che ricevo ogni giorno. La direzione è posta sotto il controllo dei colleghi. Sentono che è meglio allontanare il più possibile chi potrebbe superarli presto. Ci sono due tipi di esseri viventi. Quelli con la spina dorsale, che pertanto camminano e a volte corrono anche. E poi ce ne sono altri che non ne hanno. E pertanto strisciano, attaccati al suolo. Bisogna essere sempre se stessi, senza curarsi dell'ambiente o degli altri. Ed io sono e voglio restare un idealista. Leo, è molto più spiacevole per me che non per te averti chiesto tante volte del denaro. Io ti posso solo assicurare che non ho speso neppure un pfennig per i miei piaceri o per noncuranza. Voglio inoltre ricordarti che molte donne non sanno fare nulla da sole, non lavorano. Ma i loro mariti sono molto contenti di loro e non le infastidiscono. Tu avrai sempre abbastanza denaro per te ed io sarò in grado di guadagnarne per me. E in più, quando avrò un bambino, saprò anche educarlo da sola. Leo, tu scrivi che siamo ancora giovani e che possiamo ancora organizzare la nostra vita. Che tu possa mantenere questa promessa. Una casa nostra, dei mobili nostri, una nostra biblioteca, un lavoro sistematico e tranquillo, le passeggiate al parco e di tanto in tanto l'opera. E ogni anno un mese di vacanze senza ombra di lavoro. Ieri, mentre passeggiavo al Tiergarten, ad un tratto mi sono trovata fra i piedi un bimbo di 3-4 anni, con un grazioso vestitino e dei finissimi capelli biondi, che ha cominciato a guardarmi. Allora ad un tratto io ho provato l'impulso di prendere questo bambino, stringerlo, abbracciarlo e portarlo a casa e tenerlo come se fosse mio. Leo, ti prego, dimmi che non litigheremo mai più. Nessuna coppia al mondo ha più possibilità di noi di essere felice. Cara Rosetta, fra qualche giorno sarò a Berlino e così ci potremo incontrare. Mi farebbe tanto piacere vederti. Caro papà, anch'io desidero tanto rivederti. Purtroppo nei prossimi giorni sarò molto impegnata. Ti scriverò, non appena mi sarà possibile disporre di un po' di tempo per me. 4 studenti della delegazione del nostro partito hanno contestato il mio mandato al congresso dell'Internazionale di Parigi. È chiaro che hanno votato per la maggioranza soltanto perché sono una donna. Giunta di nuovo a Berlino, ho avuto la notizia della morte di mio padre. Ho evitato a lungo qualsiasi contatto con la gente. Soltanto adesso il lavoro mi ha fatto tornare un po' di equilibrio. Ieri sera ho riaperto la scatola con le lettere di mamma, papà, Anna, Josef. Le ho rilette tutte. Sono arrivata ad odiare tutta la politica, per colpa della quale non rispondevo per intere settimane. Se credessi in Dio, sarei sicura che ci punirebbe duramente per questo tormento. Sono inchiodata qui, dove già alle 3:30 del pomeriggio devo accendere una luce per scrivere una lettera. È tanta l'oscurità che regna qui a Berlino d'inverno. Mi vogliono nella Leipziger Volkszeitung, a Lipsia! I vantaggi? 1. Tanti soldi. Potremmo vivere cantando, andare tutte le estati in Svizzera o al mare e vestirci bene. E in più mettere da parte ogni mese alcune centinaia di marchi per i nostri cari. 2. E il più importante, peso politico. Che cosa significhi essere nella direzione del giornale più importante del partito? Lo sai tu stesso. I singoli atti terroristici non producono nessun effetto sul governo. Soltanto le azioni di massa costituiscono una minaccia, perché disorganizzano il sistema di potere e organizzano la forza politica che rovescerà l'assolutismo. uno sciopero generale costretto entro i confini della legalità assomiglia ad una dimostrazione di guerra fatta con cannoni disinnescati sotto gli occhi del nemico. In che cosa consiste la legalità borghese? Quando un uomo viene costretto da un altro uomo in una stanza fredda e inabitabile, chiunque capisce che questo è un atto di violenza. Ma se la stessa operazione si svolge in base al codice civile e la stanza si chiama Regio Carcere Prussiano, allora si trasforma in un atto di pacifica legalità. Quando un uomo viene costretto da un altro uomo ad uccidere sistematicamente e contro la sua volontà i suoi simili, chiunque capisce che questo è un atto di violenza. Ma se la stessa operazione si svolge in base al codice civile e l'azione si chiama servizio militare, beh, allora diventa un'azione legale. La legalità borghese è la violenza della classe dominante. Se la socialdemocrazia riuscisse a legare le masse lavoratrici alla legalità borghese, questo lascerebbe il campo al dominio illimitato della violenza reazionaria. Se la socialdemocrazia tedesca riuscisse a legare le masse lavoratrici alla legalità borghese, questo lascerebbe il campo al dominio illimitato della violenza reazionaria. Mediante l'attività parlamentare o con qualunque altra attività, questo avviene affinché al momento giusto la rivoluzione scenda dalle teste nei pugni. Improvvisamente e inaspettatamente sono stata rilasciata ieri sera. Ho ringraziato di tutto cuore la tranquillità e la solitudine forzata che mi hanno permesso di ricostituirmi internamente. In contatto con gli uomini ho infatti sempre la sensazione di una frattura interna. La storia reale, come la natura, è molto più ricca e bizzarra dell'intelletto. L'umile preghiera che 200.000 operai hanno rivolto domenica 22 gennaio allo zar davanti al Palazzo d'Inverno consisteva nell'umile richiesta che la sua sacra maestà volesse benignamente e con le sue proprie mani limitare il proprio potere. Chiedevano l'amnistia, le libertà civili, la separazione di chiesa e Stato, la giornata lavorativa di 8 ore, un minimo garantito per i salari, la distribuzione delle terre al popolo, una costituente fondata sul suffragio universale. Era il moderno istinto di classe di un proletariato serio e maturo, trapiantato in una fantastica fiaba per bambini. Così il movimento si è trasformato nello scontro di due epoche, nella lotta di due mondi. 2.000 operai sono morti, 4.000 feriti, calpestati dall'esercito dello zar. Ma questo massacro è stato il battesimo di sangue della rivoluzione. Ieri sera August Bebel ha detto: quando scoppierà la rivoluzione in Germania, Rosa sarà a sinistra e Dio a destra. E poi ha aggiunto scherzosamente: ma la faremo impiccare, non le lasceremo mettere troppo sale nella minestra. Scherzosamente. Parto per la Russia, mentre attraverso il confine polacco, nascosta dentro un vagone militare, mi sento come Ulisse nella pancia del cavallo. Mi sento come rinata, come se avessi ritrovato la terra sotto i piedi. Beh. Sha dziewczyna wesza jedyna, jak różowe kwiat. Oczka zapłakała, rączka załamała, stracił jej się świat. Czemuś te płaczesz, czegoś nadziekaw, dziewczyno moja? Jak cię nie mam płakać, nie mam narzekać, nie będę twoja. La rivoluzione nella sala da pranzo di mamma e papà sembra una cosa così lontana. Bisognerebbe vivere sempre così, vicini alle persone che amiamo, celebrare le feste e le solennità come tutti, perché è soltanto in questi momenti che ci si rende conto di essere vivi. Il momento che viviamo qui è meraviglioso, perché pone problemi a bizzeffe, stimola la fantasia, il pensiero, la critica, l'ironia, agita le passioni e ad ogni momento partorisce qualcosa, e non topi morti o insetti come a Berlino, ma soltanto cose gigantesche. Mi sono talmente abituata all'ambiente rivoluzionario che ho paura quando penso che dovrò tornare al tranquillo tran tran della Germania. E riservatemi un posto sul Neue Zeit, anche quello gigantesco. Leo! Vuoi del tè? O una tazza di cacao? Non hai ancora preso niente. Raccontami della tua fuga, delle persone che ti hanno aiutato. Non so da dove cominciare. Una sera ho trovato la porta della cella aperta, il corridoio al buio e giù in fondo un uomo che lì per lì mi ha fatto gelare il sangue. Invece era il mio liberatore. Mi ha accompagnato di notte in una casa sperduta nella campagna, con un gallo che cantava tutte le ore. Ma ti hanno da mangiato? Mi sembri così dimagrito. Mi hanno ingozzato come un'oca all'ingrasso. Anche la compagna Irena si preoccupava sempre che io non mangiassi abbastanza. Irena? La conosco? Penso di no. No, non era a Varsavia quando c'eri tu. E com'è? Giovane? Ottimo questo te. Perché cambi argomento? Leo, rispondimi. Mi conosci, lo sai che ho più paura dell'inganno che della verità. Va bene. Ero solo e disperato, tenevo per la mia vita. Lei era lì con me. E quindi? Sei stato con lei? Ma è stata una relazione senza significato. Sei tu quella che io amo. Ma questo è ancora peggio. Tu sei stato con lei senza amarla, quindi hai tradito anche lei. Insomma, che cosa vuoi che ti dica? Che l'ho amata? Sì, l'ho amata in quei pochi giorni. Ma sono state le circostanze che... Vattene! Io non ti voglio più vedere! Non voglio più stare con te! Non ti voglio più vedere in questa casa! Ma che cosa dici, Rosa? Sei impazzita! Ma dobbiamo fare tante di quelle cose assieme. C'è da preparare il congresso di Londra. Sul piano politico il mio appoggio non ti mancherà mai, ma sul piano personale io non voglio avere più niente a che fare con te. Mi viene voglia di farti male, di morderti, di dimostrarti che non ho bisogno del tuo amore, che posso farne a meno. La rivoluzione è magnifica e ogni altra cosa è priva di importanza. La rivoluzione è magnifica e ogni altra cosa è priva di importanza. La rivoluzione è magnifica e ogni altra cosa è priva di importanza. Qualcuno vi dirà che sarà la guerra a scatenare la rivoluzione in Germania, ma non è così. La guerra scaturisce dall'essenza stessa dell'ordine sociale capitalista. Nell'economia capitalista lo scopo non è il bisogno della società, ma il profitto. Nel suo sviluppo, questo modello crea dei danni che possono essere risolti solo dal socialismo, che al contrario non è rivolto all'accumulazione del capitale, ma a soddisfare i bisogni di vita dell'umanità. Sono sola. Fino ad ora i banditi del capitalismo avevano cacciato l'uno accanto all'altro e adesso incomincia la lotta tra di loro per la conquista dello spazio non ancora occupato, per la sua ripartizione. Ero convinta che i socialisti di ogni nazione avrebbero contrastato le velleità aggressive e colonialiste dei loro governi. Invece pensano tutti di vivere in un periodo di pace e mi considerano una Cassandra che farnetica sulle possibilità di una guerra. Sono sola. Scusatemi, la signora che mi ha aperto la porta ha detto che potevo entrare. Sono Kostia, il figlio di Clara. Kostia, non ci posso credere. Ma sei un bambino quando ti ho visto l'ultima volta. E quando sei arrivato, come sta Clara? Sta bene, vi manda una lettera. Sono venuto a Berlino per seguire un corso alla scuola del partito e mamma mi ha detto di venire subito da voi. Mi davi del tu, ricordi? Mi chiamavi zia Rosa. È passato tanto tempo. Io non c'ero l'ultima volta che sei venuta a Stoccarda, a casa nostra. Benedetta Clara, ma perché non mi ha telegrafato che venivi? E poi ha un bel coraggio a chiedermi di trovarti un alloggio con tutto lo spazio che c'è qui. Fammi vedere se c'è qualcosa di buono da mangiare. Ci deve essere qualcosa? Mi sembra un sogno essere qui con te. Rosa, tu sei sempre stata per me la donna ideale. Ma mi hai visto bene. Kostia, tu sei così giovane. E a me sembra di avere 100 anni. Vorrei avere più tempo per il tuo amore. 6 assemblee li ho già dietro di me. Me ne aspettano ancora 7. Dappertutto parlo contro l'indifferenza del partito nei confronti delle minacce di una guerra e sostengo il rifiuto dell'obbedienza militare. Dappertutto si è registrato un pienone straordinario e io stessa sono stupita della coscienza critica delle nostre masse. Ciò dimostra che le masse sono infinitamente superiori ai cretini parlamentari che si ritengono loro capi. Le prometto, signor ufficiale, che il mio discorso non oltrepasserà i limiti consentiti. Noi crediamo che non siano gli ordini dall'alto a decidere del verificarsi e dell'esito di una guerra, ma al contrario, quando la grande maggioranza del popolo che lavora giunge alla convinzione che le guerre sono un fenomeno barbarico, completamente immorale e nemico del popolo, allora semplicemente le guerre diventano impossibili. E anche lei, signor ufficiale, non è che un semplice strumento nelle mani della borghesia e che lei lo sappia o meno, è vittima dello stesso meccanismo repressivo che è costretto ad esercitare. Se ci si aspetta che noi alziamo l'arma dell'assassino contro i nostri fratelli francesi o di qualunque altra nazionalità, noi diciamo no! Questo non lo facciamo! Rosetta, ho girato tanto in taxi per trovare la tua nuova casa. Ho bisogno di parlarti, non potevo scriverti soltanto. Pensa che il comitato di stampa del partito ha emesso una direttiva che obbliga i redattori a non criticare il gruppo parlamentare. Ormai imbavagliano anche i nostri giornali. Lo so, mi hanno costretto a dimettermi dal giornale su cui scrivo da più di 15 anni perché ho osato criticare l'approvazione del piano di riarmo del governo da parte dei deputati socialdemocratici. Verranno tempi ancora più bui, mia cara amica, per noi e per tutti i popoli. Però sono contenta di vederti nonostante il motivo che ti ha portato qui. E come sta Kostia? È molto impegnato, ma temo che sarà presto chiamato alle armi. Stanno cominciando a reclutare quelli della sua età. Hanno ammazzato il principe ereditario austriaco e sua moglie. Dove? Come? A Sarajevo. L'Austria ritiene responsabile la Serbia. Sarà la guerra. È ciò che la Germania aspettava per scatenare il conflitto in tutta Europa. Il nostro gruppo ha votato a favore delle spese belliche. Io solo no. Dobbiamo intraprendere una lotta contro la guerra. Una lotta interna al partito. Siamo io e te. Karski, Leo, Clara e Pick. Dobbiamo diventare la maggioranza. Che differenza tremenda in ogni piccola cosa fra il nostro lavoro di una volta e la merdosa socialdemocrazia d'oggi. Dappertutto, ogni cosa che si tocca sembra legno marcio e sembra che tutto debba franare completamente, disfarsi ancora di più affinché nuovamente compaia il legno sano. Non ho più paura di nulla. Il 4 agosto, quando il gruppo parlamentare dei socialdemocratici ha votato a favore dei crediti di guerra, ero inorridita, quasi affranta. Da allora sono completamente tranquilla. Coraggio. Tanto le cose andranno comunque male. Ah, Sognuchka! Il 1° di maggio, il nostro gruppo, Spartaco, è riuscito a mobilitare gran parte degli operai di Berlino a manifestare contro la guerra. Erano più di 10.000 e la piazza era già presidiata dalle guardie a cavallo quando ad un certo punto vostro marito, Karl, è salito sui gradini del monumento principale ed ha gridato: «Abbasso la guerra! Abbasso il governo!» Sognuchka, siate forte e sopportate l'assenza di Karl. Baciate i bambini e dite loro che nessun generale ha mai portato con tanto onore l'uniforme quanto il loro papà porterà la casacca da carcerato. Ecco decapitato il nostro gruppo, Spartaco, senza processo. Karl e Clara in carcere, Karski in campo di concentramento ed io in carcere per una detenzione protettiva, così l'hanno chiamata. Soltanto Leo è libero e con le sue capacità organizzative sarà in grado sicuramente di far uscire qualche numero di lettere di Spartaco. Temo che l'ospitalità del Kaiser questa volta non sarà di breve durata. Per favore? Per favore? Il mio abito a giacca blu con camicetta, la sottana rosa pesante e 3 federe, tutto come monogramma. La coperta bianca a fiori e la coperta di satin verde del letto da ragazza. Cartelle d'arte, Michelangelo, Turner, Feuerbach. Dei libri, per favore. Lotte di classe in Francia, la Bibbia francese, geologia, etnologia e Kipling, il secondo libro della giungla. Cara compagna, mi scrivi che con l'irruenza si finisce al fresco e da allora serve a poco. È una fortuna che la storia mondiale non sia stata fatta dai tuoi simili, altrimenti non avremmo avuto la riforma e saremmo ancora sotto l'ancien régime. Ma procura almeno di rimanere un essere umano! Rimanere esseri umani è la cosa principale! Io lo so benissimo che la resa dei conti secondo giustizia non avverrà mai. Quando da piccola lessi dello sterminio dei pellerossi americani, fremevo di dolore, stringevo i pugni dalla rabbia perché quegli spagnoli, quegli angloamericani, erano morti e non si poteva farli tornare in vita per far loro subire tutte le torture che avevano inflitto agli indiani. Ogni infamia si perderà nel caos dei conti non saldati della storia. E presto saranno tutti un unico popolo di fratelli. Sognuchka, leggendo le notizie dalla Russia, ho pensato a voi ogni giorno. Le notizie che ci arrivano sono esagerate dalla stampa e quanto alle persecuzioni di ebrei in Russia, queste voci sono pure menzogne. La rivoluzione ha ripulito l'aria dall'atmosfera soffocante della reazione. Riesco piuttosto ad immaginarmi delle persecuzioni antisemite in Germania. Di certo vi è l'atmosfera giusta, fatta di bassezza, vigliaccheria, reazione e ottusità. Siamo arrivati all'inevitabile scissione. La minoranza ha fondato un nuovo partito, il Partito Socialdemocratico Indipendente. Più la sinistra si divide, più sarà sconfitta. È il mio terzo Natale in Gattabuia. Tuttavia sono calma e serena, come sempre. Anche se ho provato un dolore molto intenso. Nel cortile, dove vado di solito a passeggiare, arrivano di frequente carri dell'esercito, zeppi di sacchi, vecchie giubbe e casacche militari, spesso macchiati di sangue. Vengono scaricati, distribuiti nelle celle per i rattoppi, di nuovo ricaricati e ridistribuiti all'esercito. Qualche giorno fa è arrivato un carro trainato da bufali anziché da cavalli. Per la prima volta ho visto questi animali maestosi. Hanno grandi occhi mansueti, vengono dalla Romania, sono trofei di guerra. I soldati stessi raccontano quanto sia stato difficile catturarli e farne bestie da soma, loro abituati come erano alla libertà. Qualche giorno fa è arrivato un carro caricato ad una tale altezza che i bufali non riuscivano a superare la soglia della porta carraia. Il soldato che era con loro prese allora a batterli con una tale violenza che la guardiana, indignata, gli chiese se avesse un po' di compassione per gli animali. «Neanche per gli uomini c'è compassione», rispose, e batté ancora più forte. Gli animali infine si mossero, superarono l'ostacolo, ma uno di loro sanguinava. «Sognuchka, la pelle del bufalo è dura e resistente, tuttavia quella era lacerata. Durante le operazioni di scarico, gli animali se ne stavano esausti in silenzio e uno di loro, quello che sanguinava, aveva un'espressione negli occhi come di un bambino che ha pianto a lungo perché è stato punito duramente e non sa né perché né per come. Io gli stavo davanti, l'animale mi guardava. Mi scesero le lacrime e tutta questa grandiosa guerra mi passò davanti agli occhi. Mi sento a casa mia in tutto il mondo. Ovunque vi siano nuvole, uccelli e lacrime. Così è la vita e così bisogna prenderla, impavidi e sorridenti, nonostante tutto. Rosa Luxemburg, uscite, siete libera. E dove dovrei andare a quest'ora della notte? Matilde, come state? E com'è la situazione a Berlino? Qui c'è una gran confusione. Sta succedendo l'inverosimile. La carica di cancelliere del nuovo governo è stata affidata al presidente dei socialdemocratici. A Ebert? Non ci posso credere. Ma se una volta ha detto odio la rivoluzione, come il peccato? E cosa ne pensano i compagni del suo cancellierato? Dicono che i capitalisti l'hanno scelto apposta per far credere al popolo che faranno le riforme. Dovete tornare a Berlino al più presto. Temo che non mi sia possibile venirvi a prendere. Le strade sono interrotte. Ve la sentite di viaggiare in treno? Ma certo, finalmente la rivoluzione! Karl ha proclamato dalla terrazza del Palazzo Imperiale la nascita della Repubblica Socialista. I socialdemocratici hanno proclamato a loro volta la Repubblica Tedesca. Guglielmo II è scappato in Olanda. Al governo ci sono i socialdemocratici insieme ai socialisti indipendenti, che non hanno capito che in questo governo non conteranno mai niente. A Ebert interessa soltanto far cessare gli scioperi e ristabilire l'ordine. Ma siccome non si fida dell'esercito, sta organizzando dei mercenari reclutati tra la soldataglia rimasta allo sbando alla fine della guerra. Si fanno chiamare corpi franchi. La tipologia la conosci, Rosa. Ex militari in carriera, delusi dalla sconfitta e nuove reclute, alzate contro il nemico interno, che veri socialdemocratici siamo noi, dato che sosteniamo il movimento rivoluzionario. Le speranze di noi spartachisti sono alimentate dal successo dei bolscevichi in Russia. Tuttavia, mi è difficile capire se i bolscevichi siano realmente pericolosi. L'ultracentralismo, raccomandato da Lenin, è pervaso da uno spirito sterile di guardiano notturno. Bisogna battere un mondo, ma ogni lacrima versata è un'accusa. E ogni persona che, perseguendo il suo scopo, calpesta anche solo un verme per brutale mancanza di attenzione, commette un delitto. La libertà nelle mani di un solo partito non è libertà. La libertà è sempre soltanto libertà di chi la pensa diversamente. Siamo nelle mani di un cupo destino. Mi consola soltanto l'atroce pensiero che forse presto sarò mandata all'aldilà. Forse da una pallottola della controrivoluzione in agguato da ogni parte. Io non so cosa mi prende, ma bisogna che il giornale della Lega di Spartaco sia pronto entro stasera. Bisogna coordinare i redattori. E bisogna scrivere. Bisogna scrivere. Bisogna indicare al popolo la via della rivoluzione, ma rifiutando ogni forma di violenza. Dovete convincere a rifiutarsi. Poi un torno è sufficiente. Ogni notte mi potreste stare in un luogo diverso. È impossibile poter venire a Rosa. Ho già tenuto abbastanza di farla dormire a casa sua. Hai visto questo? Mi ha portato in casa. Lavoratori, cittadini, la patria è prossima a soccombere. Salvatela. Non è minacciata dall'esterno, ma dall'interno, dal gruppo Spartaco. Ammazzate i suoi capi. Uccidete Libnet. Allora avrete pace, lavoro e pane. Cato vuole andare a protestare da Erech perché il governo metta fine a questo linciaggio. Ma te lo piace. Se mille standardi sono usciti dalle tasche delle vicine di turisti di Erech, ricorda per attaccarli delle sedi della cancelleria. Bisogna uscire dal governo, anche se con una scissione la parte più reazionaria avrà la mano libera. Povero Carlo, nemmeno quest'anno potrei passare le ferie in famiglia. Come Cassandra. Quando ci siamo staccati dalla maggioranza e abbiamo fondato il Partito Comunista Tedesco, siamo sempre più braccati. E meno gli alberghi sono più sicuri per noi. Io non credo che il nostro piano per supportare la rivoluzione vada come speriamo, è troppo debole, c'è troppa improvvisazione e io sono troppo stanca. Bebel fece un discorso meraviglioso su quello che si sarebbe compiuto nel nuovo secolo. Ti ricordi, Carlo, che non so cosa mi venne in mente di vestirmi da giapponese con il naso che mi ritrovo. Fu un capodanno meraviglioso. Quante speranze, Carlo. Credi davvero che si stiano avverando? Suona. Suona ancora. Stato maggiore di una divisione paramilitare che opera a Berlino, odore di vino e di sigari. Ufficiali con la divisa slanciata, stravaccati su letti e divani. Scendono alcuni soldati dei corpi franchi, preceduti dal loro capitano. Tengono saldamente per le braccia carne al capote uno stato malamente caro, non ha il cappello. Pochi servienti dell'albergo lo guardano stupiti. Davvero, quest'uomo dall'aria mite è il terribile sanguinario capo dei banditi di Spartaco. Avrò avuto 4 anni e avevano diagnosticato una tubercolosi e dovevo trascorrere le giornate a letto. Il coltello si avvia verso la porta. Un soldato alza il fucile e lo batte con violenza sulla testa di Carlo. Lui si piega senza un gemito. I soldati lo trascinano verso la macchina che li attende col motore acceso. L'auto si avvia nella direzione opposta a quella del carcere. va verso il parco, si infila in un largo viale alberato. Carlo è costretto a scendere, si regge a malapena in piedi. Un giorno la mamma tornò a casa dal mercato con una rosa in boccia. Alza lo sguardo, intravede le dita scheletriche dei rami degli alberi, affondati nella caligine buia del cielo invernale. Gli risuona in capo, come una canzoncina, la frase con cui dal carcere chiudeva le lettere per Sonia, la sua Sognuchka. Poi a tarda notte mi addormentai. E la mattina dopo scoprii che la rosa era sbocciata senza la mia compagnia. Quanti sono i rami e le foglie, altrettanti sono i baci che